Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Ciao Federico, buonasera a tutti. Ciao Chiara. Allora, abbiamo una puntata molto cerebrale. Sì. Dedicata al cervello, ma molto diversa, molto diversificata. Sì, la seconda parte è un po' orrida, non vi sto a dire niente, però riguarda anch'esso il cervello. Allora, partiamo raccontando la differenza del, ovviamente, cervello quando sogna e quando fantastica ad occhi aperti. Cominciamo da lì. Come dice Amleto, dormire, sognare, forse morire. Sì, qua è tutto veramente al limite del sogno, della fantasia. La ricerca che stiamo per raccontare è proprio così, in bilico. Borderline. Esatto. Allora, diamo subito il benvenuto al nostro ospite, Armando D'Agostino, buonasera. Buonasera, buonasera. Benvenuto. Lei è medico, psichiatra e anche ricercatore presso l'Università degli Studi di Milano e insieme al San Raffaele e al collega Francesco Benedetti avete fatto un importante scoperta. Avete identificato alcune aree cerebrali coinvolte nel ricordo, nella rievocazione dei sogni e delle fantasie. È meraviglioso così al pensiero, però ci deve spiegare un po' come che cosa significa. Funziona. Grazie, come abbiamo fatto? Diciamo che è uno studio che parte un pochino da lontano, nel senso che parte in una serie di lavori che noi avevamo sviluppato come appunto università statale su aspetti più fenomenologici del rapporto tra sogno e fantasia, quindi che non avevano ancora a che vedere con quelli che sono i correlati neurali di queste esperienze soggettive. Senta, lei ci ha già introdotto una differenza fra sogni e fantasia, cioè fantasia allora, quella che facciamo ad occhi aperti? Esatto, fantasia è intesa come quello che noi facciamo ad occhi aperti, sogno come quello che facciamo tutte le notti quando ci addormentiamo, in qualunque fase del sonno in cui da un risveglio noi produciamo un'esperienza soggettiva, quindi un'esperienza onirica. E diciamo che l'interesse che noi abbiamo avuto nello studio di queste due esperienze è legato al fatto che l'una assomiglia all'altra per una serie di parametri formali, per una serie di aspetti strutturali di come sono concepite queste esperienze. E quella della fantasia è forse l'esperienza di veglia che più assomiglia a quella del sonno. Un po' il sognare ad occhi aperti, infatti, si dice, no? Infatti, adesso esatto. Chiara chiede questo, cioè non è che qualunque cosa che pensiamo è fantasia, è quando facciamo dei particolari pensieri svegli. Esatto. Cioè, per esempio? Un pensiero che è sconnesso in qualche modo dall'ambiente esterno e dalla realtà esterna del dato momento, quindi il fatto di fantasticare significa in un dato momento escludere quello che è l'ambiente esterno e quindi mettere il cervello nella condizione di concentrarsi sull'esperienza soggettiva e basta. E cioè, quindi fantasticare. Sono in macchina e sto pensando di essere un grande giocatore di calcio, insomma, quindi una roba di questo genere. Va bene. Queste sono delle fantasie tipiche della vita. Allora veniamo un po' anche ai vostri risultati qui. Cosa avete ottenuto allora, in questo ambito? Diciamo che quello che noi abbiamo fatto è stato sostanzialmente valutare la differenza di alcuni parametri, appunto dicevo, formali, che poi si concentrano nel concetto di bizzarria tra il sogno e la fantasia. Abbiamo evidenziato come in passato come ci siano delle differenze, che è stato un riscontro abbastanza sorprendente, nel senso che uno sarebbe portato a pensare che la fantasia costituisce di per sé una costruzione dell'esperienza soggettiva abbastanza bizzarra. In realtà la fantasia ad occhi aperti in veglia è un qualcosa che non ha di per sé una bizzarria molto elevata. Noi quando siamo svegli tendiamo comunque, per quanto fantastichiamo e quindi costruiamo qualcosa che è al di fuori dalla realtà, costruiamo un qualcosa che risponde a delle logiche abbastanza precostituite, che quindi non riesce a diventare bizzarro, quanto invece diventa il sogno. Ma cosa diversa è per il sogno? Il sogno invece è un po' più bizzarro. Esatto, e questa è una cosa di grandissimo interesse, perché significa che il cervello da solo, spontaneamente, è in grado di generare una bizzarria molto elevata, ma lo può fare solo nel momento in cui è del tutto deafferentato, diciamo noi, ovvero sconnesso dall'ambiente esterno. Se io sono in macchina, come diceva lei, che sto fantasticando, in realtà non riesco ad essere del tutto sconnesso. Il mio cervello è in una condizione di continua interazione, anche se magari sotto soglia, un'interazione di cui io non sono in quel momento consapevole, ma continua interazione con l'ambiente esterno. In quella condizione la mia fantasia non sarà mai formalmente bizzarra. Cioè, per quanto io possa immaginare una cosa stranissima, però se sono sveglio c'è tutta una sua razionalità, tra virgolette, mentre invece nel sogno è il cervello che va da solo. Faccio un esempio, la transizione è tipica, la bizzarria, noi poi da un punto di vista del lavoro abbiamo utilizzato una scala che è stata sviluppata dalla Nobson Università di Harvard negli anni '80. Ed è una scala che misura la bizzarria come discontinuità, incongruenze o vaghezza della trama, dell'esperienza narrata. Quindi una tipica discontinuità è quella della transizione che si ha nella scena onirica. Quando io sogno, osservo ad esempio di entrare in una stanza, in questa stanza è la mia stanza da letto nella quale mi trovo, e all'improvviso, girandomi, mi accorgo che in realtà è la stanza di quando ero bambino. Sì. Esco dalla porta e questa, fuori dalla porta posso di esserci la strada che c'era quando ero bambino, c'è una spiaggia bellissima. Allora, questa tipologia di transizione fa sì che noi passiamo varie scene nell'esperienza soggettiva che il sogno è praticamente costituiscono l'essenza stessa del sogno. Noi quando facciamo dei sogni siamo tipicamente costruiti in questo modo. L'esperienza di fantasia invece difficilmente porta a delle bizzarrie di questo tipo. Noi possiamo immaginare delle scene che sono molto diverse da quella che è la realtà di tutti i giorni che noi viviamo, ma praticamente mai riusciamo a immaginare queste transizioni. È un po' più razionale proprio. E queste differenze rispecchiano, si ritrovano anche proprio nelle aree cerebrali che appunto costruiscono questi pensieri, questi sogni? Esatto, allora quello che abbiamo fatto con il dottor Benedetti del San Raffaele è stato cercare di vedere in uno scanner, quindi in una risonanza magnetica funzionale, che tipo di aree cerebrali si attivavano nel sogno e nella fantasia. Quindi abbiamo chiesto a dei volontari di raccontarci i loro sogni e insieme ai sogni, per ciascun sogno ricordato, sviluppare diciamo un racconto di fantasia, e poi abbiamo chiesto a loro di rievocarli in una risonanza magnetica funzionale, quindi mentre facevamo una sessione di scanning del loro cervello. Quindi loro sostanzialmente riascoltavano dentro allo scanner quella che era la loro esperienza soggettiva di sogno e di fantasia raccontata, questo per una sessione abbastanza lunga in cui il sogno chiaramente non era uno solo, erano vari sogni e vari racconti di fantasia. Quello che abbiamo visto è che il cervello fa un lavoro molto diverso nel sogno e nella fantasia. Intanto nel sogno e nella fantasia, rispetto alla rievocazione di esperienze soggettive normali che non siano né l'una né l'altra, esiste l'attivazione di strutture del cervello destro particolari, con le strutture frontotemporali di destra, ma la cosa più interessante è che nel sogno rispetto alla fantasia queste strutture progressivamente si deattivano al crescere del livello di bizzarria, il che significa che il cervello nel rievocare le storie e racconti della propria esperienza onirica rispetto a quelle della fantasia tende a spegnere queste aree che sono quindi in qualche modo probabilmente correlate alla strutturazione stessa dell'esperienza onirica. Ecco, ma in conclusione, D'Agostino, quello che potremmo dire è che si potrebbe pensare che il meccanismo della fantasia sia lo stesso, solo che nel sogno si libera, invece in realtà ha proprio una provenienza diversa. Sì, sostanzialmente sì. Ha delle strutture dedicate ad entrambe le esperienze che però sono attivate in modo completamente diverso. Con un'intensità diversa a seconda che si tratti di un'esperienza di sogno o un'esperienza di fantasia. Oh, c'è da dire, D'Agostino, che non sempre i sogni si ricordano e lì è difficile studiarli. Ah, certo, questo è... E uno poi, allora, quello che a noi piace molto di questo studio, il motivo per cui abbiamo pensato di farlo, è proprio che la difficoltà per le neuroscienze di studiare il sogno è legato al vincolo che dice lei, nel senso che il sogno comunque è invariabilmente legato al ricordo dello stesso. Devo dire che però la letteratura dimostra che i sogni sì, per certi versi sono fatti per essere dimenticati, come diceva già Freud, ma sono fatti, nel senso che tante persone che ho conosciuto mi dicono: no, ma io i sogni non li ricordo, io credo di non sognare. la verità è che i sogni sono fatti per essere dimenticati. Noi pensiamo, quello che si sa adesso dagli studi degli ultimi anni è che in realtà è quasi, a parte delle condizioni patologiche particolari, è quasi certo che noi sogniamo. Diversa è la capacità di ciascuno del memorizzarlo al risveglio. Sì. E cioè, certo. Con tutte le robe che abbiamo intorno, se ricordassimo anche i sogni, ci avremmo una capocciona avremo la disc pieno di 2 metri di diametro. Va bene, grazie D'Agostino. D'Agostino, buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Allora Chiara, non inorridire nuovamente, visto che ti dovrò rileggere quel passo. No, cercherò. Ospite qui con noi stasera Gilberto Colbellini. Ciao Gilberto. Buonasera, ciao. Ben ritrovato. Storico, ciao, della medicina, che ogni tanto scomodiamo e utilizziamo sia per cose, ma anche questa è molto seria, però insomma, sono per cose molto serie che riguardano la storia medicina, ma anche per alcuni aspetti che sempre all'interno della storia medicina però sono un po' folli. E il tema di questo nostro incontro è l'asportazione dei cervelli. Sì, che detta così un po' fa esatto, non ridire. Allora, ricorda tu il titolo del libro di cui andiamo a parlare? Sì, prendiamo spunto da Il defunto odiava i pettegolezzi di Serena Vitale e edito da Adelphi. Allora, non è un libro di scienze e tecnologia, però ci suggerisce una riflessione appunto su antropologica. Allora, dobbiamo proiettarci nella Russia del 1930. Siamo già dentro il periodo staliniano, non è il periodo tremendo che ci sarà 5-6 anni dopo, 35-36, dove Stalin bene o male eliminava un centinaio di nemici suoi reputati tali al giorno, però insomma le cose cominciano ad andare male e gli intellettuali che avevano appoggiato così tanto la rivoluzione cominciano a vedere nero. Uno di questi era il grande poeta Majakovskij. Cosa gli succede? Beh, gli succede che si suicida. Il romanzo della Vitale ricostruisce molto bene anche in termini di giallo questa vicenda. C'è anche un sospetto che sia stato suicidato. Sì, infatti il suicidio non è del non è tutto così netto, non è ancora stata capita, però insomma è abbastanza anche probabile che effettivamente si sia suicidato. Viene trovato nella sua stanza, una cameretta piccola, è praticamente un appartamento, un monolocale. Ecco, e allora cosa succede? Arrivano vari, insomma, arrivano le ambulanze, arrivano, però certamente comincia ad arrivare la polizia politica. Ad un certo momento, e leggo un passo appunto del racconto della Vitale, ci sono tutti lì nella stanza dove c'è il corpo di Majakovskij che giace per terra, e a un certo momento cosa succede? Arriva un personaggio, è uno sconosciuto, alto, corporatura massiccia, seguito da 2 uomini in camice bianco. Si sofferma brevemente nella stanza da pranzo e poi questo personaggio dice: allontanate tutti i parenti e tutti gli altri. Greenkrug, che è uno che era lì presente, accompagna tutte le persone, era un amico Greenkrug di Majakovskij, accompagna tutte le persone fuori, resta il personaggio strano con il suo assistente nella stanza, chiude la porta. Chi resta fuori sente colpi impudentemente forti, si poteva credere che abbattessero un albero. I 3 uomini escono dalla stanza di Majakovskij, l'ultimo regge con cautela, ecco, ti vedo inorridire, una vaschetta, sotto il panno bianco si intravede una piccola piramide, insomma un prismino tronco. Sembra una pascia, dice qualcuno, che è un dolce tipico della Pasqua, no? Non è invece... Una tortina. No, non è il dolce di ricotta che un tempo si preparava per la Pasqua, è il cervello di Majakovskij. Allora, effettivamente questa immagine è tremenda perché in tutto il condominio si sente questi che sbattono. Il fracassamento del cranio. È una cosa tremenda. Allora, Gilberto, questa cosa di ascoltare i cervelli dei personaggi famosi era estremamente di moda. C'è stata anche la famosa esportazione del cervello di Einstein. Prima di Majakovskij, l'asportazione del cervello di Lenin. Di Lenin? Per me, esatto. E infatti i cervelli di Lenin e di Majakovskij stanno entrambi all'Istituto sul cervello, l'istituto del cervello di Mosca, che era stato creato dai bolscevici nel 1928, e insieme al cervello ai cervelli di Pavlov, di Bechterev, di Stanislavski, insomma, cioè insieme a qua una trentina circa, credo, anche di più, di cervelli, diciamo, di personaggi famosi, oltre che poi cervelli invece più normali di routine, o addirittura cervelli patologici per vedere. Ma lì c'era una questione di avere come vezzo, diciamo, come feticcio il cervello di un grande, oppure c'era l'idea che, siccome insomma erano materialisti veri, o meglio ritenevano di essere materialisti veri, pensavano che la natura del genio si potesse vedere in qualche particolare caratteristica del cervello, infatti, cioè che anatomicamente fosse diverso. Fosse anatomicamente diverso, e quindi o fosse più grande o avesse caratteristiche differenti. E questa è una cosa, insomma, che è andata avanti e continua anche adesso, perché insomma sui pettetti di cervello di Einstein, che stanno un po' in giro per il mondo, ogni tanto qualcuno, insomma, li passa attraverso qualche strumento e trova qualche nuova caratteristica particolare, quindi pensa che l'ultimo è stato il corpo calloso, insomma, si è visto che Einstein, per esempio, aveva un corpo calloso particolarmente ricco in termini di connettività, e poi ci sono alcune altre aree del cervello che avevano, diciamo, erano differentemente sviluppate, per cui anche alcune sue caratteristiche nel modo di pensare, per esempio, si sa che Einstein raccontava sempre che lui non pensava verbalmente, ma pensava per immagini, e il fatto che pensasse per immagini ovviamente ha a che fare con qualche tipo di particolare organizzazione del cervello, perché certo, insomma, se hai l'area del linguaggio che ti domina sul resto, tu pensi per immagini; se invece hai un altro tipo di connettività, puoi pensare diversamente. E quindi c'è questa grande cosa. Comunque, sai, il problema è che i cervelli dei russi sono stati quelli naturalmente più studiati, e lì sì, c'è la storia del cervello di Mayakovsky. E poi, sai, questi li pesavano, e ovviamente li pesavano, poi li mettevano in rapporto alla media degli altri cervelli, quindi, cioè, se erano un po' sottopeso, abbassavano la media del cervello. Ritoccare. Perché il parametro di fondo, il peso è molto importante. Sento ridere. Esatto. Di gusto. Christopher Lee appena morto. Esatto. Ma perché c'era quel dato grezzo che se uno è un genio pesa di più, poi esatto, dopo veniva fuori che Einstein ce l'aveva meno pesante. E allora a quel punto Einstein ce l'aveva pesante, no? Ma poi la cosa, cioè tutte queste vicende qua, sai, la cosa tragicamente divertente è che, per esempio, credo che ancora oggi il cervello più pesante in assoluto, cioè il cervello più grande in assoluto, sia quello di Rulloff, che è stato un interessante filologo americano vissuto negli ultimi anni dell'Ottocento, ma il problema è che era uno psicopatico. Ecco, cioè, infatti, non era intelligentissimo. Aveva ammazzato moglie e figlio, e poi aveva ammazzato altre due persone, infatti è stato impiccato. E però Rudolf era un personaggio notevole. Rudolf, secondo me, ecco, se uno si vuole immaginare, io non ho mai trovato, cioè io non sono un appassionato, non sono stato un appassionato di queste cose, però a me, che ne so, Hannibal Lecter, per esempio, Silenzio degli innocenti, esatto, sì. Se potrebbe persino essere stato ispirato da un personaggio del genere, cioè un personaggio che era affascinantissimo, intellettuale, colto, filologo, conosceva 4-5 lingue, eccetera, eccetera, ma che allo stesso tempo una brutta bestia, ammazzava le persone con assoluta indifferenza. Ma senti, la scuola di neuroscienze sovietica, russa, anche prima addirittura, era abbastanza tra le quelle più avanzate. Ci credo. Tu dici perché avevano a disposizione i cervelli. No, non intendo. Quello. Ma evidentemente c'era proprio anche una convinzione seria dal punto di vista scientifico che si potesse. Sì, vabbè, quello comincia un po' alla fine dell'Ottocento. C'era un famoso psicologo, neurologo, che scriveva, adesso non mi ricordo il nome, insomma, si trovava i riflessi del cervello. Poi da lì venne tutta la scuola di Pavlov, e quindi Pavlov, insomma, Pavlov ebbe il premio Nobel, insomma, quindi, sì. quindi, quindi tirò su un giro di neuroscienziati estremamente, estremamente importanti, ma poi questo è andato avanti, insomma, abbiamo loro. Ci credevano. Ci credevano, hanno sempre avuto un approccio sempre innovativo, insomma, chiaramente per loro il fatto è che si doveva trovare una spiegazione materialistica, diciamo, alla storia, al mondo, insomma, come si manifesta il comportamento umano. Il cervello è la base del comportamento e quindi nel cervello ci sta la chiave per spiegare tutti i comportamenti. E poi ovviamente loro, essendo materialisti dialettici, pensavano anche che l'ambiente avesse un'importante influenza sul cervello, e quindi studiare il cervello voleva dire anche immaginarsi di poter capire come le esperienze e l'ambiente potessero consentire di allevare gli uomini del futuro, quelli, insomma, delle società socialiste e comuniste. Tra l'altro un episodio interessante è che quando devono studiare il cervello di Lenin, perché Lenin, poveretto, insomma, aveva subito un ictus, no? Aveva subito ben quattro ictus, insomma, e quindi, insomma, cioè, il suo cervello non era messo bene, ma soprattutto dovevano prendere qualcuno che in qualche modo fosse un'autorità, e quindi, insomma, chiamarono questo importantissimo citologo e istologo tedesco, che era Karl Vogt, e Vogt era, appunto, intanto era tedesco, e quindi c'è il problema, insomma, che si dava un po' di, e lui lo voleva portare a Berlino, il cervello di Lenin. Esatto, e però non glielo fanno portare, ma perché Berlino aveva la tecnologia per farlo a fette, perché e poi infatti è stato fatto a fette, invece hanno fatto fette lì a Mosca, hanno fatto in 31.000 ecco, sì, diciamo di questo, sì, perché c'è sono anche fette questa sottili, attività, sottili, ecco. Esattamente, fettine molto sottili, preparati, eccetera, e però la questione è stata che poi Vogt si porta comunque via un campione, e a quanto pare lui da questo campione riteneva, insomma, di aver trovato che il cervello di Lenin non fosse poi particolarmente un granché, insomma, anzi, che aveva alcune cellule, un numero maggiore, insomma, una presenza maggiore in alcune aree di alcune cellule piramidali che erano tipiche caratteristiche dei cervelli di ritardati mentali. E quindi c'è, cioè, casino, per cui Stalin, cioè, tutti s'agitano, e quindi bisogna mandare qualcuno che va a recuperare questo campione, perché Vogt non si può permettere di andare in giro a parlare del cervello di Lenin, e soprattutto in questo brutto modo. Esatto, e quindi c'è tutta questa discussione, eccetera, e poi si riesce, il problema a Lenin glielo risolve Hitler, di fatto. Hitler? Esattamente, glielo risolve Hitler, perché Vogt non stava simpatico a Hitler. Ah, e quindi Hitler sostanzialmente lo caccia dalla direzione del suo istituto, e quindi il campione torna. Ah, il campione torna, ecco, torna in Russia. L'hanno restituito. Sì, perché c'è un sacco di mistero su queste parti che vengono trafugate. Sul cervello di Einstein non si sa tutti i pezzi dove siano finiti. Sì, è venuto fuori che uno che aveva fatto l'asportazione era quello che ne conteneva, se lo teneva praticamente a casa, aveva aperto un laboratorio di analisi del sangue, e nel retro del laboratorio c'aveva la maggior parte del cervello di però probabilmente noi non sappiamo dove diavolo sono finiti adesso, non alcuni di questi campioni sparsi. No, si sa. Sono un po' in giro, insomma, ce ne sono, cioè, vari musei se ne sono comprati vari pezzi. C'è un museo dei cervelli alla Cornell University, se non sbaglio, poi ce n'è uno alla Pennsylvania. Cioè, vengono proprio messi in mostra, diciamo, uscendo dalla ricerca. Potremmo anche dire, Gilberto, che per i cultori della materia, al Museo Criminale di Torino, dove c'è, che era quello messo in piedi da Lombroso, io una volta sono andato, poi il direttore ha aperto una tendina e mi ha detto: guardi qua, e c'era la testa di Lombroso in formalina, con i baffi, tutto. È cominciato tutto un po' da lì, sì. Certo, è cominciato da lì. Mi sembra che ci sia anche un dito prima, di Galileo da qualche parte a Firenze. A Firenze c'è un dito di Galileo. Sì. Al museo di storia della scienza. Storia della scienza, che ovviamente è fondamentale, il dito per il museo della storia della scienza. Ma quello è un dito, non è un cervello. Va bene, abbiamo fatto questo breve giro che abbiamo capito che potrebbe durare degli anni. Sì, tutte le asportazioni di cervello. Una ricchezza di aneddoti non indifferente. Grazie Gilberto, buon lavoro. Grazie a voi, buonasera, ciao. Ciao, ciao. Ma tu che sei una gastronoma, la cervella la fai? No, quelle cose lì non mi piacciono, però vabbè. E ancor meno dopo questa puntatina. Questa qui è stata tosta, quest'ultima parte. Buona settimana a tutti. E a tutte, ciao!